giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Cooperativa artigiana Fuoco e Affini, occasionalmente spettacolare. Brigata 20 luglio, cellule contro il capitale, il carcere, i suoi carcerieri e le sue celle e solidarietà internazionale. Interna notte, una luce fioca illumina un tavolo posto al centro della stanza. Un uomo inserisce pochi grammi di polvere da sparo dentro un contenitore metallico e li collega ad un innesco. Tutto viene sigillato all'interno di una cassetta blocca S e poi confezionato dentro una busta e alla fine spedito all'indirizzo del destinatario. Il mittente è di fantasia. Ordigni costruiti per colpire, azioni non sempre rivendicate, prendono di mira obiettivi nazionali ed internazionali, sedi di istituzioni europee, quotidiani, carabinieri e polizia. Ma questa è una storia che parte da lontano. Amelia Esposito. Luglio 2001, mancano pochi giorni all'inizio del G8 di Genova. Una busta esplosiva viene recapitata ai carabinieri di San Fruttuoso. Quasi contemporaneamente altri ordigni arrivano nella redazione del TG4, al gruppo Benetton di Treviso e a Bologna, in via dei Terribilia, a due passi dalla questura. Il 20 luglio un volantino rivendica gli attentati, è firmato dalla cooperativa artigiana Fuoco e Affini, anarchici insurrezionalisti. E colpiranno ancora, di nuovo a Bologna nel 2002, con una bomba davanti all'IBM, per poi arrivare all'ottobre scorso con l'improvvisa, violenta esplosione dell'offensiva. 2 ottobre, tre buste incendiarie recapitate alla sede romana della Regione Sarda, al Ministero del Lavoro e a una stazione dei Carabinieri in Sardegna. Il 6 novembre un ordigno arriva in una stazione dell'Arma di Roma ed esplode nelle mani del maresciallo Stefano Sindona, che perde 2 dita. Un secondo pacco arriva a Viterbo, in questura. Il 10 novembre un plico bomba è indirizzato a un giornalista del Corriere di Viterbo. Ancora Viterbo, la città dell'anarchico Massimo Leonardi, arrestato dalla Digos con l'accusa di associazione sovversiva. La stessa città colpita domenica notte. Passano più di 3 mesi dal primo all'ultimo episodio, durante i quali l'offensiva anarchica colpisce obiettivi dell'Unione Europea. Il 21 dicembre 2 cassonetti esplodono a Bologna, vicino la casa di Romano Prodi. Il presidente è di nuovo nel mirino il 27 dicembre, un libro recapitato nella sua abitazione ed esploso senza ferire nessuno. Il pacco è stato spedito da Bologna il 22 dicembre. Altri, partiti in quello stesso giorno, saranno recapitati il 5 gennaio a Bruxelles e a Manchester. I destinatari, ancora, rappresentanti del Parlamento europeo. Come in un cerchio che si chiude, il mittente di una delle lettere è la fantomatica casa editrice europea, con sede a Bologna, in via dei Terribilia, la stessa via in cui 2 anni e mezzo fa riparte l'attacco anarco-insurrezionalista. In Italia gli anarco-insurrezionalisti sono 250-300, sono attivi dalla seconda metà degli anni Ottanta. Nascono in contrapposizione con la FAI, Federazione Anarchica Italiana. La giudicano vecchia e mobile. La differenza teorica e pratica è notevole. Nell'anarchismo tradizionale l'idea è la distruzione del potere attraverso un raccordo con le lotte di massa. Gli insurrezionalisti sostengono invece che la società va distrutta attraverso attacchi armati e dinamitati. L'area anarco-insurrezionalista non sembra strutturata, agiscono cioè in una sorta di spontaneismo coordinato. Esistono gruppi di affinità costituiti da chi vive esperienze politiche e personali comuni e interviene nel territorio. Poi ci sono i nuclei di base, con sigle provenienti da altri riferimenti politico-ideologici, che condividono obiettivi specifici. Sono nuclei di base a partecipazione mista, comunque unità autogestite che si mobilitano per l'attacco e comunicano attraverso canali telematici. L'8 gennaio il ministro dell'interno Pisano analizza le strutture degli anarco-insurrezionalisti in Italia. Questi stessi attentati confermano che componenti importanti dell'anarchismo, nell'elevare il livello della loro azione terroristica, si muovono secondo una strategia coordinata e preordinata con cura nelle sue varie fasi e nella selezione degli obiettivi. Se è vero, infatti, che permane un sostanziale rifiuto delle scelte organizzative di tipo militarista proprie del brigatismo, altrettanto evidente appare oggi la propensione a superare il vecchio cliché spontaneista per operare in maniera mirata. Maurizio Laudi, procuratore della Repubblica giunto presso il Tribunale di Torino, è uno dei primi magistrati ad indagare sull'area anarco-insurrezionalista. L'ha intervistato per il Giallo e Nero Maria Luisa Pezzale. Quale matrice ha il movimento e chi sono in pratica gli anarco-insurrezionalisti? Come dice il termine stesso, è un gruppo che nasce all'interno, diciamo, dell'area anarchica, ma che si caratterizza specificamente perché propugna un programma di azioni violente di natura squisitamente terroristica, con una finalità dichiarata di un rivolgimento appunto violento del sistema politico. Perché la strategia dei pacchi bomba? Questo è una, come dire, tecnica frequentemente, direi abitualmente usata da questo gruppo, nel senso che si tratta di un gruppo che non ha fino adesso almeno, e parliamo dell'ultimo decennio, commesso degli attentati nel senso diretto della parola, cioè con azioni armate tipo quello delle Brigate Rosse, ma che ha sempre utilizzato invece esplosivo, pacchi bomba per colpire obiettivi, in maniera anche diversa a seconda delle modalità di confezionamento dell'ordigno stesso, quindi talora con funzione puramente, diciamo così, dimostrativa, altre volte invece con una specifica volontà, con uno specifico intento di colpire la persona o le persone che potessero venire a contatto appunto con il pacco destinato. Pensa che siamo di fronte ad un salto di qualità nel movimento? Direi che ci sono dei segnali preoccupanti in questo senso, per due ordini principalmente di motivi. Il primo è la frequenza delle azioni compiute, che indica una concreta disponibilità anche in varie parti del territorio italiano a scendere sul terreno appunto dell'azione diretta. In secondo luogo vi è un salto di qualità ovviamente assai negativo per ciò che concerne la pericolosità degli strumenti utilizzati, nel senso che la maggior parte degli ultimi attentati erano attentati con una idoneità, con una potenzialità lesiva, aggressiva, molto forte, mentre in anni passati era prevalente l'aspetto, come dire, dimostrativo e si sceglievano intenzionalmente degli obiettivi soltanto materiali, soltanto strutture, non persone, e quindi questa differenza che abbiamo riscontrato negli ultimi tempi è certamente motivo di grande preoccupazione. Luca Tampieri, il pubblico ministero della Procura di Bologna, che dal 2001 indaga sul fenomeno anarco-insurrezionalista. Sentiamolo al microfono di Amelia Esposito. Lei si occupa di indagini sugli anarchici insurrezionisti dal 2001, quindi dalla bomba di via dei Terribilia. Quelli più importanti sono stati quelli relativi all'esplosione in una banca di Bologna dopo che era stata commessa una rapina da parte di Fantazzini, che è un noto anarchico, e poi c'è stato un episodio ulteriore nel 2002 all'IBM di Bologna, dove c'è stata collocata una bomba simile a quella di via dei Terribilia, e poi ci sono stati questi ulteriori episodi. C'è un filo che lega via dei Terribilia agli ultimi episodi contro obiettivi dell'Unione Europea? Sicuramente c'è un filo conduttore tra i primi episodi che ho ricordato, poi con riferimento a questi ultimi ancora non lo sappiamo, è quello che stiamo cercando di capire. Quindi si continua ad indagare anche sull'area degli anarchici storici, quelli conosciuti nel bolognese. Si continua ad indagare sull'area non solo bolognese, come si faceva anche prima. Credete che il mondo dell'anarchia insurrezionalista, un mondo apparentemente frastagliato, composto da piccoli gruppi, piccoli collettivi, possa essersi organizzato oggi in una struttura più ramificata e più coesa, tale da colpire in questo modo? No, questo non lo crediamo, crediamo che abbia conservato le sue caratteristiche. Quindi di microgruppi che agiscono in autonomia senza un coordinamento nazionale se non addirittura internazionale? Sì, questo non risulta assolutamente, credo che non sia in questo momento neppure ipotizzato. Per cui è possibile escludere un legame tra i fatti bolognesi e i pacchi partiti da Bologna e i fatti di Viterbo o piuttosto della Sardegna? Escludere no, però sicuramente non è l'ottica di lavoro nella quale ci muoviamo in questo momento. A cosa è dovuta secondo voi questa riesplosione adesso, in questo momento, di questo fenomeno? Ma probabilmente è dovuta alla considerazione che c'è una forma diversa di statalismo che è quella a livello europeo più allargato e quindi considerazioni che loro fanno ad un livello superiore rispetto a quello nazionale, probabilmente dipende da questo. E perché proprio Bologna? Solo perché c'è Romano Prodi o anche per altre ragioni? No, non credo che ci sia la possibilità in questo momento di capire perché i pacchi sono partiti da qua. Il procuratore faceva questo tipo di valutazione, in realtà vogliono soltanto che le loro attività vengano sponsorizzate e non bisognerebbe fare il loro gioco. Lei cosa ne pensa? Ma sì, probabilmente anche questo è giusto, perché poi gli atti emulativi sono all'ordine del giorno e sicuramente quello che loro vogliono è essere più visibili possibile con tutto il risalto che si è dato in questi ultimi tempi, l'obiettivo l'hanno sicuramente raggiunto. Quanto crede lei che siano pericolosi questi gruppi? Beh, sono ad un livello di pericolosità crescente, questo è pacifico, che gli ordigni che hanno confezionato, gli ultimi sono incendiari, gli altri erano anche esplosivi, quindi il livello di pericolosità è sicuramente da non sottovalutare. Contatti accertati sono emersi tra anarco-insurrezionalisti italiani, spagnoli, greci e tedeschi. In Italia, secondo gli inquirenti, i gruppi operanti si snodano tra Bologna, Viterbo e Cagliari, ma presenze significative vengono trovate anche a Roma, Milano e Torino. È una nuova strategia che indica un salto di qualità nelle azioni oppure il segno di una continuità con il passato?